Io ho due figlie, hanno tutte e due gli occhi blu, una più intensa e l'altra meno, e sia io che mio marito abbiamo gli occhi scuri. Era simpatico No, quell'idraulico che è queste passato a cose però. casa. Va bene, e vuol dire che Non si è sapevo trovato che. bene. Tu fai? Non lo so, Mike, buongiorno, Sabina Ciuffini, chi preferisci? A me piaceva anche Corrado, però. Va bene, Corrado, Sì, dai, ti fai piace? Corrado, ma Faccio Corrado. dai. L'importante è che tu non ti senta Napoleone, perché sennò mi No, preoccupo. no, non esageriamo, non ho queste manie di grandezza. È tempo di andare a sentire I mercati. no, i mercati, neanche le borse e le strade. Mannaggia, le strade. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cara la mia Nicoletta, oggi inizia una nuova settimana di lavoro e noi di lavoro torniamo a parlare qui a Cuore e Denari perché abbiamo fatto proprio la settimana scorsa una bella puntata dedicata ai giovani e al mondo del lavoro. Sì, lo facciamo, torniamo a parlare di lavoro perché ci ha molto colpito la telefonata dell'imprenditore di Novara, titolare di un agriturismo, che ci ha raccontato che faceva fatica a reperire camerieri per la sua attività. E dopo quella telefonata la redazione di Cuore e Denari è stata letteralmente sommersa di mail di persone che volevano candidarsi per questa occupazione, che ci chiedevano una mano, e la cosa ci ha fatto accendere dei pensieri. Esatto, ci ha fatto proprio capire che Cuore e Denari deve lavorare anche in questa direzione per raccogliere le esigenze delle persone e provare a trovare delle soluzioni dal punto di vista del cuore e dei denari. Lo faremo quindi anche oggi e, come si dice, allora restiamo in contatto. Il valore di un'idea sta nel metterla in pratica. Thomas Alva Edison. Forse dentro ciascuno di noi sonnecchia un imprenditore, magari non si risveglierà mai, ma non si può escludere a priori che improvvisamente qualcosa lo solletichi e lo porti ad aprire gli occhi e a uscire dal bozzolo e quindi a prendersi dei rischi per creare qualcosa di nuovo. Magari è proprio quello che è capitato a qualcuno di voi che ci sta ascoltando. Allora oggi cerchiamo di capire se potenzialmente abbiamo la stoffa dell'imprenditore, se ne abbiamo le caratteristiche. Un esercizio che può essere utile anche a chi sa per certo che non intraprenderà mai un'attività in proprio, perché l'essenza dell'imprenditorialità, chiamiamola così, può esprimersi infatti anche al di fuori del mondo del lavoro, influenzando ad esempio le nostre relazioni, il modo in cui prendiamo le decisioni e quindi affrontiamo le sfide che la vita di ogni giorno, proprio come fa il mercato, ci mette davanti. Voglio salutare subito il dottor Michele Cucchi, che è in studio con noi, psichiatra e direttore sanitario del Centro Medico Sant'Agostino di Milano, esperto di ansia e di stress e autore di un libro molto interessante che abbiamo qua sul tavolo, Vincere l'ansia con l'intelligenza emotiva. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, grazie. Buongiorno. Intanto dottore la ringrazio perché ci ha dato una mano a costruire una specie di griglia, possiamo chiamarlo autotest, non va bene, ma insomma una serie di domande che abbiamo postato sul nostro profilo, sulla nostra pagina di Cuore Denari, per andare un po' a capire se dentro di noi c'è questo imprenditore. Però, dottor Cucchi, le ricerche di stampo psicologico e neuroscientifico che indagano l'essenza dell'imprenditorialità stanno aumentando, segno che quindi insomma c'è molto interesse, ricevono sempre più attenzione. Allora, lei ci aiuta a tratteggiare un identikit psicoemotivo dell'imprenditore? Proviamoci. Definire cosa sia un imprenditore non è un capitolo già scritto e chiaro in assoluto, Però proviamo a dare una fenomenologia riassumendo quello che la letteratura neuroscientifica ci dice oggi. Le persone che poi intraprendono appunto l'attività dell'imprenditore sono delle persone con una forte propensione al rischio. Seppur siano abili calcolatori istintivi, non sono semplicemente spregiudicati giocatori d'azzardo. Sono persone che hanno una grande capacità di ottimizzare il bilanciamento fra efficace sfruttamento delle risorse esistenti e una creativa esplorazione di alternative. Sono delle persone che per istinto sono ottimiste, cioè non si lasciano scoraggiare. Dicono riescono, ce la faccio, no? Ce Chi la fa da sé fa per tre. Hanno un drive interno molto forte, per cui hanno sempre la convinzione di riuscire a rimanere con la barra al centro. Questo li porta ovviamente ad affrontare tante cose, fra cui anche le condizioni in cui c'è incertezza. Anzi, diremmo che gli imprenditori cercano l'incertezza e si trovano a loro agio in questa condizione. Sono attratti dalle novità e in un certo senso potremmo definire che sono anticonformisti. Tu ti senti un po' imprenditore o più manager, Deborah? No, diciamo che forse è il caso che io faccia quello che non si può chiamare test, ma questo lavoro che ci ha portato il dottor Cucchi, e adesso ci penso un attimo. Però potete compilare... Manager no. No, non ce la faccio. Diventiamo proprio imprenditori? Proviamoci. Abbiamo un'idea brillante? Ma ce la facciamo venire. Sì. 800 24 0024. Fatevi venire anche voi una bella idea. Chiamateci, intervenite nella nostra trasmissione. Se volete anche indagare se dentro di voi sonnecchia un imprenditore, andate sulla nostra pagina di Cuore Denari, perché potete giocare un po' a farvi solleticare dalle domande che ci ha suggerito il dottor Cucchi, che mirano proprio ad individuare dei lati del nostro carattere che possono essere utili per metterci in proprio come lavoro, ma anche per capire come affrontiamo la vita, se come manager o come imprenditore, possiamo certo dire così. Anche perché l'imprenditorialità non è una caratteristica monolitica, si spacchetta in tante sfaccettature e ciascuno di noi nella quotidianità di oggi, in cui c'è cambiamento, c'è incertezza, deve un po' fare ricorso delle caratteristiche che ricorrono negli imprenditori. Non sarà un'avventura, questo amore è fatto solo di poesia. Tra un po' cercheremo di capire se mettersi in proprio è un'avventura. Abbiamo già pronte delle testimonianze da alcuni ascoltatori, Stefano da Bologna e Piero da Torino, ma prima di ascoltarli vorrei presentare anche la prossima ospite, e adesso ve la introduco. Si può avere un'idea eccellente, individuare una nicchia di mercato scoperta da coprire, un mercato mai raggiunto da nessuno, ma poi si vede l'opportunità e si fa fatica ad agguantarla perché in mezzo c'è la burocrazia, la necessità di capitali per finanziare lo sviluppo dell'idea. Bisogna avere anche un metodo per fare impresa, non basta solo l'idea vincente, occorre anche avere la concretezza e la capacità di affrontare tutti gli aspetti concreti, burocratici, fiscali, giuridici dello sviluppo di un'attività d'impresa. Buongiorno a Cristiana Trovò, dottore commercialista, autrice di un manuale che esce da domani e per un po' di settimane con Il Sole 24 Ore, Mettersi in proprio, che è il vademecum per chi decide in tempi di crisi di inventarsi un'impresa. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Tra l'altro abbiamo anche qualche articolo di giornale sotto gli occhi e vedo che stanno moltiplicandosi le statistiche che ci raccontano che l'autoimpiego è sempre la strada maggiormente scelta, appunto, da chi ovviamente adesso si sta mettendo nel mercato del lavoro, ma anche chi sta facendo altre scelte, chi magari molla un lavoro dipendente proprio per come dire, sviluppare un'idea che coltiva da un po' di tempo e magari fino a quel momento non aveva avuto il coraggio, no, di avventurarsi nell'autoimpiego. Comunque, dottoressa Trovò, si fa presto a dirlo, sembra banale, ma non basta trovare l'idea. Lei lo dice molto chiaramente nel suo libro. Sì, non basta trovare l'idea e non è neanche facile trovare l'idea, non esiste una tecnica da seguire. Per trovare un'idea suggerirei di guardare alle nostre esperienze, al nostro vissuto. A questo proposito mi piace citare il caso di Airbnb, che è il colosso web che si occupa di affitti brevi di vacanze. Qui l'idea è nata a San Francisco da tre ragazzi universitari che volevano arrotondare. C'era un grande evento in città e quindi molti hotel erano esauriti e loro decidono di affittare parte del loro appartamento. L'idea viene perfezionata e poi sostenuta da un fondo di private equity e ora sono davvero grandi. Se abbiamo la perché la necessità gusta l'ingegno, esatto. Sicuramente si dice che la fame lo faccia, però qua l'abbiamo trasformata in necessità. Peraltro San Francisco, la Silicon Valley, sono molte le idee che nascono in garage, in cantina, no? Non è solamente quella di questi tre ragazzi che, certo, poi hanno avviato l'attività di Airbnb. Sì. Ecco, se abbiamo poi la fortuna di trovare un'idea, però dobbiamo anche provare a formalizzarla, fare una sorta di business plan molto semplice. Questo ci permette di capire di testare la nostra idea e poi l'idea deve essere può essere molto ambiziosa, ma deve essere semplice e concreta. Bisogna avere le idee chiare e poi provare a fare qualche numero per capire se i costi che pensiamo di avere e i ricavi hanno, hanno un senso economico. Dobbiamo immaginare quelli che sono i capitali che dobbiamo investire, sia per fare gli investimenti che per l'attività corrente. Dobbiamo immaginare dove recuperare i soldi, quindi se abbiamo pensare a dei risparmi, alle relazioni parentali, amicali, alle banche. E poi, se saremo fortunati, la nostra impresa andrà bene, possiamo pensare a finanziatori esterni per la crescita, quella grande. Fino addirittura a sognare la borsa, perché sì, no? Perché 800 24 00 24, fra un po' andremo ancora più nel concreto, delle indicazioni che è utile seguire per sviluppare un'idea, farla diventare magari l'impresa, la compagnia, la società della nostra vita. Sentiamo qualche ascoltatore, sì, Nicoletta? Sentiamo gli ascoltatori e invitiamo chi ci sta seguendo proprio a raccontarci se vi è venuto in mente di mettervi in proprio, quali sono stati gli ostacoli di fronte ai quali vi siete scontrati, come è andata, se vi hanno fermato o invece ci siete riusciti, perché la dottoressa Trovò ci ha descritto una strada abbastanza in salita. Ma insieme al dottor Cucchi andremo anche a capire questi lati del nostro carattere che noi abbiamo definito come essenza dell'imprenditorialità, quanto ci possono aiutare anche se siamo dipendenti e vogliamo rimanere dipendenti, perché l'imprenditore può essere anche un imprenditore nelle relazioni, nel modo in cui gestisce il suo quotidiano. Allora, Stefano, Piero e Letizia. E là, quanti? Allora, cominciamo con Letizia. Dai, cominciamo con Letizia. Cominciamo con una donna, perché porta fortuna parlare di questo tema con una donna. Letizia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta e Deborah. Buongiorno, grazie per essere intervenuta. Che cosa ci racconta? È un'imprenditrice o ha un'idea e quindi vuole farsi aiutare dai nostri esperti? No, no, sono un'imprenditrice, sono già partita e ho anche trascinato con me diverse persone. Più donne o più uomini, Letizia? Mi piace molto come avete impostato questa conversazione, perché effettivamente l'imprenditore a volte sonnecchia dentro di noi per un lungo periodo e poi a un certo punto si sveglia. Vi dico brevemente il mio progetto. Io mi occupo di bilinguismo e apprendimento precoce delle lingue. Ho vissuto molto all'estero e sempre lavorando in contesti aziendali. E poi ho lasciato questo percorso, ho fatto partire un blog sul bilinguismo che si chiama Bilingua per Gioco e ho cominciato a organizzare gruppi di gioco in inglese per bambini e genitori insieme, che si chiamano le Rui Mami, che sono oggi presenti in una decina di città in Italia, da nord a sud, quindi da Torino a Lecce. Quindi io personalmente ho lasciato il lavoro aziendale per diventare imprenditrice. Sì. E quasi tutte le mie insegnanti, quindi una decina di persone, hanno fatto lo stesso percorso, hanno lasciato un lavoro aziendale per far partire un lavoro in proprio che permettesse loro di trovare sia la soddisfazione personale, perché è molto bello lavorare con i bambini, che quella economica, e anche far quadrare le esigenze lavorative di chi gestisce anche una famiglia. Quindi non si è lasciata intimorire, tutto. Letizia, dalla crisi, dalle questioni di ordine burocratico, fiscale, no? Qual è stato magari l'ostacolo che ha trovato che a un certo punto le ha fatto anche dire ma forse ci potevo pensare un po' meglio? O non è mai successo? No, non l'ho passata quella fase. Nel senso che non ho trovato un grande ostacolo. Secondo me l'ostacolo più grande è il fatto di mantenere la propria motivazione. Le difficoltà ci sono sempre, però quando si ha una forte costanza nell'affrontare queste difficoltà poi si superano, e quindi è più un impegno emotivo. Vedi, importante. È proprio quell'imprenditore che c'è in noi. Letizia, lavorano con lei più donne o più uomini? Al momento siamo tutte donne. Evviva! Però, sì, però anche gli uomini non li buttate via. No, esatto. Cioè, è bello avere ambienti misti, però al momento siamo tutte donne. Vogliamo ricordare il suo sito, perché a Cuore Denari, quando arrivano queste proposte, esatto, questi suggerimenti, poi noi vogliamo comunque cercare di offrirne più possibile per metterci un po', rimanere in contatto e per dare anche alle persone che stanno cercando lavoro o vogliono cambiare lavoro di cogliere delle opportunità. Quindi potremmo aprirlo anche Deborah e io qua a Milano, voglio dire, questo bilingue per gioco. Con l'inglese che parliamo io e te, Nicoletta, non lanciare per carità queste idee. Marchigiano. Perché li traumatizziamo questi bambini. Facciamo un'altra cosa, quella che ci viene meglio. Basta andare sul suo blog, Letizia? bilinguaperggioco.com. Sì. Perfetto. Grazie Letizia, complimenti, in bocca al lupo. Grazie. E dove andiamo? Bologna, andiamo Torino? Andiamo a Bologna, perché invece Stefano vuole partire con un'attività. Letizia ci ha raccontato un'impresa già partita che sta già avendo grande successo e consenso. Stefano invece è ancora ai primi passi. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Buongiorno. Io volevo aprire, diciamo, un'attività nuova, che si tratta del noleggio con conducente, però mi sembra che ci siano tanti ostacoli davanti. Per esempio? Un consiglio. C'è tutta la burocrazia, bisogna avere 7.000 patenti in più, tipo di integrazione, per in pratica guidare una macchina che io la guido da 25 anni, insomma. E certo. Io mi fermavo al pulmino 9 posti, non a corriera. Ah. Quindi diciamo non un privatissimo, non un conducente per una o due persone, voleva intanto comunque comprare un veicolo un pochino più grande, no? Esatto. E quindi fare dei gruppi. Ma è già partito, ha già chiesto, non lo so, per esempio in comune, in provincia? Sì, ho già fatto tutto, alla fine della fiera ci vuole una svalangata di soldi, perché se il comune non dà la licenza, bisogna comprare la licenza usata. Parliamo di 80.000 euro minimo. Già, un po' come i tassisti. No, ma sì, Stefano, tra l'altro, ma lei ha fatto anche una valutazione se a Bologna c'è bisogno di un servizio di questo tipo? Che cosa l'ha mossa verso un'idea di questo genere? No, perché vedo che a Bologna, tra aeroporto, stazione dei treni, cose varie, c'è un servizio già grandissimo, però c'è sempre bisogno, a qualsiasi ora, giorno e notte, e mi sembra che sia un buon lavoro in questa zona, avendo diciamo stazioni ferroviarie. Ecco, ma come si fa, Stefano? Io credo nella sua idea, ma no, come si fa, vogliamo, non è che si è inventato, a capire se la propria idea è un'idea su cui è possibile investire? Lo chiederei ai nostri due esperti. Buongiorno all'ascoltatore, mi ricollego anche a Letizia prima per dare due spunti rispetto a quella che è la sua esperienza, anche per una persona che sta cercando di intraprendere qualcosa. Ha detto due cose molto importanti. La prima è che si è buttata, non ha avuto paura. Questo è tipico degli imprenditori, cioè entrano dal porto con acqua sicura, al mare aperto, spesso sono da soli, però si buttano. Questa energia poi riesce a permettergli di risolvere quelle che sono anche le situazioni burocratiche o le cose più pratiche, che comunque sono degli ostacoli importanti oggigiorno. Altra cosa importante che ha detto è che rispecchia le caratteristiche tipiche dell'imprenditore, che magari non sono dei leader eccezionali, però sono dei grandissimi trascinatori di loro, per cui loro vendono l'autodeterminazione che trasudano in ogni cosa che fanno e sono in grado di comunicare una visione. Per cui si portano dietro delle persone che si imbarcano con piacere in quella che è la visione dell'imprenditore. Per cui, se posso dare un consiglio all'ascoltatore, se lui ha passione in quella che è la sua attività, oltre che una esperienza personale, dovrebbe provarci. Cristiana, trovò. Sì. Qua però lui dice ci vogliono un sacco di soldi. Li troviamo? Questo è sempre un aspetto un po' difficile, perché in effetti se ci presentiamo da una banca con un'idea per quanto buona, non sempre queste banche sono disponibili così semplicemente sulla base di un'idea a dare un finanziamento. Oltretutto immagino che l'ascoltatore non abbia neanche un'esperienza pregressa, esatto, sulla quale far leva. Esattamente, per cui sono sempre un pochettino, come dire, burocrati da questo punto di vista. Bisogna sicuramente attingere da qualche risorsa personale, poi una volta che l'attività è avviata è più facile anche accedere al canale bancario, perché ci si può fare finanziare appunto sulla base di un'attività che in effetti sta funzionando. Certo, 80.000 euro insomma dipende poi dalle possibilità di ciascuno, capisco che non è una cifra facilissima da raggranellare. E poi bisogna vedere se appunto... Convinta per questo progetto del nostro amico di Bologna. Io non è un problema del progetto, nel senso che non so valutare se abbia senso o meno, perché mi chiederei prima di tutto se esista un mercato, mi farei un giro all'aeroporto, vedrei se ci sono i taxi che lui dice che ha fatto. Quindi verificato questo, c'era una mia amica qualche anno fa, ogni tanto mi vengono in mente questi episodi, perché suo figlio voleva aprire un'edicola, io sono marchigiana, era in provincia appunto di Ancona, e mi ricordo che lei fece fare a questo ragazzo un'indagine proprio di marketing per capire esattamente quale punto fosse scoperto da un servizio di vendita di giornali, e quindi ha fatto aprire quell'edicola là. Ha fatto bene. Dottor Cucchi. credo che potrebbe venirci in soccorso un'altra caratteristica tipica degli imprenditori. Gli imprenditori sono molto generosi quando devono parlare di se stessi e danno tanti consigli, perché e soprattutto quelle persone che si dimostrano intenzionate a fare qualche cosa, come se fossero molto accudenti nei confronti di cuccioli di imprenditore. Cui quello che consiglio a questa persona è di sfruttare questa caratteristica e provare a mettersi in contatto, cercando di condividere le domande che ci stiamo ponendo noi con chi magari è già più avanti di lui in certo, questo percorso. A meno che un concorrente non lo scoraggi, però, perché potrebbe anche esserci questo pericolo, sì, no? Ma chi te ma lo fa fare? No? No, dai, che pensiamo bene. 800 24 00 24, se vogliamo fare rete, darci una mano, riflettere un po' a voce alta, naturalmente con l'aiuto dei nostri esperti. Tra l'altro, dottor Cucchi, lei potrebbe aiutare i nostri ascoltatori che sono lì, che pensano di fare il passo ma non sanno se ne hanno le caratteristiche, con magari un paio di domande evidenziare quali sono le caratteristiche che lo connotano. Proviamo a giocarci un po'. Dete, insomma, chiamate e se avete così il coraggio di affrontare un paio di domande del dottor Cucchi, il nostro esperto potrebbe tratteggiare un po' il vostro profilo e vedere se tra le caratteristiche che emergono ce ne sono anche alcune che fanno parte del profilo dell'imprenditore. Tra le domande di denari potrebbero essere, sappiatelo, già molto più banali: avete soldi per partire o vi siete già imbattuti in qualche burocrate che vi ha messo un po' i bastoni tra le ruote, quindi io poi riporto tutti sulla realtà. Allora. Roby ci scrive una cosa che ti piacerà molto, perché Deborah è golosa come un orsetto di miele, che purtroppo non posso neanche più mangiare. Io ho investito in agricoltura ormai da qualche anno, la mia passione da sempre, investito in agricoltura, io ci credo anch'io e mangiamo anche il miele della molto volentieri. Zia di il Laura grande Vanossi. Messaggio che dà Oscar Farinetti sempre di ritornare un po' alla terra, sai che, anche lì non facile. Sai che piuttosto che alla terra noi dobbiamo andare sui mercati, Deborah? Di che già, tocca a te. Sono già le 11.30, certo. Andiamo. Cuore e denari. Io gioco le mie carte, ma quello che mi manca è solo un manager, manager, manager, un manager, oh manager, manager. Beh, noi siamo un po' le manager del nostro programma, no? Perché anche la confezione di questo richiede organizzazione, gestione di problemi. Mi piace, dai. Inciampi della giornata, mettere insieme le idee mie con le tue, i poveri ragazzi che ci sopportano. È una piccola impresa la nostra, tutto sommato. È una bella impresa. 800 24 00 24, se volete mettervi in impresa da soli, si può dire così, diventare imprenditori di voi stessi nel lavoro, nella vita. Stefano dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, sta bene? Molto bene, grazie. Oh, ottimo. Questa è una bella notizia. Allora andiamo, dai. Beh, noi nel 2012, io e il mio socio Claudio, decidiamo di metterci in discussione. Io avevo lavorato 7 anni in una multinazionale, il mio socio aveva fatto l'artigiano per 10 anni sotto un'altra azienda e decidiamo di mettere insieme la mia attitudine commerciale alla sua capacità produttiva in un mercato particolare che è quello dei fly case. I fly case sono dei contenitori atti a trasportare materiali speciali utilizzati in ambito racing, dalla Formula 1 ad altre categorie di competizione, all'audio service musicale dei concerti, per intenderci. È un mercato di nicchia in Italia, i competitors sono qualche decina, non ce ne sono molti, però avevamo l'idea di portare una qualità e un'artigianalità a un altro livello. E devo dire che dopo un anno e mezzo di attività siamo arrivati a mercati importanti, con clienti importanti, grazie proprio alla qualità che mettiamo nei nostri prodotti e il servizio, perché il servizio è l'80% di una fornitura, anche di un prodotto, di un manufatto. Ecco, e fin qui tutto bene, Stefano, poi? Fin qui sono tutte le intenzioni, qui da metterla in pratica ci è voluto un po' di pelo sullo stomaco, perché non avevamo esperienza con rapporti con le banche, con finanziamenti, con business plan. Ci siamo circondati di professionisti che ci hanno consigliato. Noi abbiamo trovato importantissimo andare a dialogare in banca e imparare lo stesso linguaggio, perché purtroppo se si va a chiedere dei soldi ad una banca e non si sanno bene le cose come funzionano, si rischia davvero di chiudere ancora prima di aprire. Ma l'hanno finanziata, Stefano, quantomeno in questo caso? Noi abbiamo inevitabilmente impegnato dei nostri risparmi, però l'investimento è stato importante perché abbiamo bisogno di macchinari, di uno stabilimento e ci siamo dovuti rivolgere ad una banca. Abbiamo anche ricevuto dei contributi regionali per le giovani imprese che ci hanno aiutato. È stato difficile, una cosa che trovo assurda per una nuova impresa che deve partire è anticipare l'IVA sugli investimenti che si vanno a fare senza avere un anno di deroga almeno. Infatti, Stefano, guardi, vedo la dottoressa Trovò che stava annuendo. Che cosa vuol dire questo passaggio che ci ha descritto Stefano? Sì, significa che quando noi facciamo, quando un'impresa compra qualsiasi bene, paga anche una parte che è l'imposta e l'IVA. Questa imposta è possibile portarsela in detrazione, quindi per l'impresa non è un vero costo, ma finanziariamente comunque richiede di essere pagata. Cosa succede? Che quando siamo in presenza di una startup che fa molti investimenti all'inizio, perché prima bisogna spendere e poi si incassa, noi abbiamo tanta IVA credito e poca IVA, perché l'IVA si compensa poi con quella che noi riceviamo dalle nostre stesse vendite, quindi quando l'impresa a regime vende e compra, e quindi l'IVA non diventa un problema, ma all'inizio quando le vendite rispetto agli acquisti sono piccole, in effetti è pesante. È pesante. Si formulano tante idee anche da parte di tanti espertoni del settore su come rilanciare l'impresa nel nostro paese, anche appunto l'autoimpiego. Questo potrebbe essere un modo per aiutare, no? Cercare di fare in modo che tutto questo anticipo di IVA non venga appunto subito versato, ma magari dare ha ragione Stefano. Sì, si potrebbe pensare che appunto per le start-up il versamento dell'IVA, almeno per quanto riguarda appunto quelli che sono gli investimenti in macchinari, impianti che servono per partire, magari anziché dover essere appunto versati subito quando ancora tu non guadagni. Cioè in realtà tu la paghi al tuo fornitore e poi potresti recuperartela sull'IVA che vedi. Bisognerebbe far sì che è possibile acquistare magari in esenzione di IVA quando io vado a fare appunto un investimento che dimostri che è per una startup, per una esattamente società che sta questa potrebbe essere una soluzione. Il nostro ascoltatore ha tirato fuori tre parole secondo me interessanti che servono agli imprenditori, a chi vuole proprio aprire un'attività imprenditoriale, ma anche a chi vuole solamente lavorare su se stesso per vincere un po' l'ansia, l'insicurezza, lavorare sull'autostima. Qualità, servizi e competenza. Tre parole che aiutano dottor Cucchi a fare dei progetti e a concretizzarli. Assolutamente, però penso che la base sia anche fatta da alcuni vissuti emotivi. Per esempio, volevo sapere immagino che questa fase abbia determinato ansia, stress. Come si confronta lei con l'ansia e lo stress? Abbiamo ancora Stefano? Se Stefano, eccolo, qua. Stefano. Ma diciamo che l'ansia e lo stress li abbiamo superati fortunatamente da un riscontro positivo nel lavoro, nel senso sono stress positivi. Lo stress che fa male è spingere in un'attività e non vedere i risultati. Noi dico che siamo stati fortunati, però sono convinto che la fortuna aiuta gli audaci. Lo stress c'è, ci svegliamo alle 6 di mattina, andiamo a letto alle 10 di sera, però si è ripagati da una risposta del mercato. L'ansia iniziale era quella di trovare uno spazio in questo mercato. Volevo trasmettere una nota positiva, nel senso spazio ce n'è. Chiaro che non in tutti i settori ci possiamo cimentare. Penso all'edilizia piuttosto che altri settori messi in ginocchio da altre problematiche. Il nostro fortunatamente è una produzione di nicchia dove se puoi offrire qualcosa di più riesci a recuperare quote mercato. Essere e benessere. Creatività è permettersi di fare degli sbagli. Arte è sapere quali sono da tenere. Henry Brooks Adams, scrittore e storico. Niente al mondo può sostituire la tenacia. Il talento non può farlo. Non c'è niente di più comune di uomini pieni di talento ma privi di successo. Il genio non può farlo. Il genio incompreso è quasi proverbiale. L'istruzione non può farlo. Il mondo è pieno di derelitti istruiti. La tenacia e la determinazione, invece, sono onnipotenti. Calvin Coolidge, politico. Insomma, avere l'idea è una bella cosa, però ci sono mille idee che lasciano un po' il tempo che trovano. Come valutarle? Dottoressa Trovò, lei sul libro mette a disposizione proprio una scheda di valutazione. Va bene essere creativi, ma bisogna anche essere molto concreti. Sì, ci dà qualche stimolo per capire, perché chissà quanti dei nostri ascoltatori, molti ci stanno scrivendo, raccontandoci quelli che al momento sono i loro sogni, le loro idee, ma poi bisogna, insomma, dall'idea passare un po' all'azione. Sì, assolutamente, ma io credo che per essere concreti bisogna proprio provare a formalizzare la nostra idea, e credo che cimentarsi con un semplice business plan sia un buon punto di partenza. Intanto, che cos'è il business plan? Il business plan è un documento che ci serve, nasce con una finalità esterna per comunicare agli altri, ma io credo che serva anche prima di tutto a noi stessi per capire se la nostra idea ha un senso. Quindi, come si fa? Come si fa? In maniera molto chiara e semplice, senza neanche usare troppe parole, bisogna prendere un foglio, fare prima di tutto una bella parte descrittiva, quindi chiederci che quale prodotto o servizio vogliamo vendere, a chi lo vogliamo vendere, dove lo vogliamo vendere, a quale prezzo. Cosa ci aspettiamo? Descrivere quello che è il nostro mercato di, o che pensiamo possa essere il nostro mercato di riferimento. Provare a mettere anche quelli che sono le nostre motivazioni, che cosa ci spinge a fare questo e che cosa ci porta a pensare che siamo capaci di farlo. E poi dobbiamo anche cimentarci con i numeri, quindi magari anche con un semplice foglio di Excel, se lo sappiamo usare. Ma un imprenditore dovrà usarlo, esatto, l'imprenditore deve... Impariamo. Dobbiamo imparare, deve farsi molte cose da sé, un vero imprenditore. E qui dobbiamo fare qualche numero, cioè dobbiamo pensare quali saranno i costi e quali saranno i ricavi associati a questa nostra attività, anche perché per fare l'impresa bisogna dedicare molta energia, molti sacrifici, come abbiamo anche sentito, però lo si fa se abbiamo un ritorno, se no non ha senso, e quindi dobbiamo immaginare anche questo. Quindi quanto mi costerà produrre questa bottiglia di vino e quanto devo rimetterla sul mercato per poter poi continuare a finanziare l'impresa, ricavarmici anche uno stipendietto. Sono puntata sul vino. Vedi che è venuta fuori, dottor Cucchi, basta una parola, state attenti a come parlate, perché il dottor Cucchi coglie, mi nascondo in dietro effetti, il miele, ma questo piano di lavoro, che si chiama così, business plan, certo, ecco, è la traduzione, certo. Ecco, noi dovremmo fare anche un piano di lavoro sulle nostre caratteristiche individuali per capire se abbiamo la forza di affrontare questa avventura, che è vero che magari alcuni, come il nostro ascoltatore, la condividono con il socio, però devi essere solido. Provo a fare una considerazione generale anche per chi non vuole necessariamente fare un'azienda, ma ha bisogno di rischiare del suo. Gli imprenditori sono dei drogati di passione, per cui quando uno si appassiona a una cosa la studia e la approfondisce del tutto. Mai visto un imprenditore che non ha una passione, non so, uno sport o qualcosa, e quando parla di quella cosa la conosce fino in fondo. Per cui molte delle informazioni che anche gli ascoltatori si hanno chiesto prima vanno raccolte nel volersi appassionare, nella naturalezza con cui uno poi approfondisce il tutto. Per cui questo è un po' il fil rouge dell'essere imprenditore. Da lì viene la base emotiva da cui vengono anche le conoscenze. Cuore e denari. Ed eccoci tornati insieme, siete davvero tantissimi a chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24, a saltare la barriera rosa, e allora spazio alle vostre telefonate, alle vostre richieste, alle vostre esperienze, ma anche ai vostri dubbi. I nostri esperti sono qui a disposizione per dare, come si dice, una mano. Antonio, buongiorno da Latina, poi Rocco da Bari, Piero da Torino e ancora Riccardo da Torino. Vedi che Torino va forte? Oggi siamo più Torino, Torino batte ancora. Oggi 100-0. Torino è una città che ha qualche difficoltà e quindi evidentemente un po' si sta risvegliando questo spirito di volercela fare. Li ho attivati, certamente. Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, io sono un piccolo imprenditore da ormai dal 2005, quindi sono 9 anni che è un'impresa individuale. Ho fatto un corso per avviare un'altra attività. Sinceramente mi sono fermato, primo perché la burocrazia per poter avviare questa attività è inconcepibile. Cioè, dovrei fare tatuaggi, ma bisognerebbe allestire uno studio come fosse una sala operatoria da insomma, il tatuaggio bisogna fare attenzione, no, Antonio? Sì, no, per carità, ma sì, no, io lo capisco, però ci sono degli accorgimenti esagerati. Ma al di là di tutto questo, no, la burocrazia, che poi volendo uno un po' di pazienza la supera, ma il problema è un altro. È una volta che io ho avviato l'attività, se penso che poi, ma più del 60% di quello che io ricavo deve ritornare allo Stato, ma la mia gratificazione dove sta? Tanto nella pacca sulla spalla del cliente che ha fatto un bel lavoro. Il nostro Mister Tattoo da Latina è un po' scoraggiato, la pressione fiscale è altissima, dottoressa Trovò, non lo scopriamo noi quest'oggi, è una grande battaglia degli industriali italiani, degli imprenditori, anche dottor Cucchi, anche per lei è così? Non sono di sicuro un esperto, però credo che anche questa telefonata ci dia uno spunto di riflessione, un consiglio. Impariamo a considerare gli sbagli e le difficoltà come delle opportunità. Cioè, quando ci si mette in gioco è normale non essere perfetti, è normale avere delle difficoltà. La difficoltà fa parte del processo di crescita. Cioè, il vero errore sarebbe quello di pensare che la difficoltà sia un limite invalicabile che ci deve tagliare rispetto a quello che è il nostro voler arrivare, il nostro obiettivo. Mai porsi dei limiti, questo lo fanno gli imprenditori. Certo, dottoressa Trova, certo che se uno dovesse appunto pensare alla pressione fiscale, magari ascoltando e guardandosi intorno, no? Nessuno aprirebbe nessuna azienda, però... Sì, purtroppo questo è il paese in cui viviamo, la pressione fiscale in effetti è alta perché al di là delle aliquote nominali poi ci sono tutta una serie di riprese quando si fanno i conteggi per le imposte e quindi la pressione fiscale diventa uno scoglio. È anche vero che se il business è ben congegnato e produce un utile, qualcosa rimane anche per l'imprenditore. Poi insomma si spera che si potrà anche andare verso... Devo dire che l'ascoltatore di Latina voleva, non ho capito bene se l'avesse avviata a meno un'attività piuttosto particolare, però voglio dire, c'è anche un mercato fuori dall'Italia molto grande, gigantesco, che ci potrebbe dare l'opportunità anche di pensare prodotti che vanno bene anche, no, per l'estero, per cui insomma ci mandi fuori tu. Sì, esatto, il tattoo forse non è esattamente un tipo di perché no. L'imprenditore deve avere anche la valigia pronta, certamente, altrimenti... Dottor Cucchi, rientra nelle caratteristiche dell'imprenditore, diciamo che la deve sviluppare questa cosa, ecco. Non è necessariamente il punto di partenza. Andiamo a Torino? Andiamo a Torino, certo, oggi la grande città che proprio ha deciso di sentirci dall'inizio alla fine e fa bene. Buongiorno. Piero. Buongiorno a chi lo sta dicendo? Piero, dai. Piero. Piero, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno anche. Intanto ha già battuto Riccardo, eh? Perché? No, perché l'abbiamo preso per primo, quindi sto ringalluzzendolo un po'. Piero, bada. Piero, ok. Buongiorno a tutti, volevo anche intervenire, sono pienamente d'accordo con il dottor Cucchi, una persona, dalle cose che dice, la ritengo una persona molto esperta in questo, in questi concetti. Cioè, incomincio col dire, se continuiamo tutti noi a dirci non sono capace, che cosa ci aspettiamo che avvenga in futuro? Che quella cosa che ci diciamo che non siamo capaci a fare, non la faremo mai. Dunque, chiunque abbia intrapreso, mi riferisco soprattutto a quell'ascoltatore di Bologna, abbia intrapreso questa decisione, consiglio di far coincidere il talento della propria passione, ovvero cioè, va dove ti porta il cuore, con quello che è il talento, cioè con quello che noi spesso diamo spazio al nostro inconscio di identificarci con dei significati delle parole che sono spesso errate. Cioè, cosa intendo dire? Cioè, essere imprenditore non significa denaro, L'imprenditoria è passione, e se la mettiamo poi in favore della collettività e non solo per uno scopo individuale, questo ti porterà sicuramente dei risultati e credo che sia la cosa migliore. Insomma, Piero mi sembra un po' un imprenditore illuminato, mi piace, sì. Non solo perché di Torino, vedi che l'aria aiuta comunque. Dottor Cucchi, che piace anche a Piero. Infatti grazie mille, lo ringrazio tantissimo. Però anche mi sono letto il libro di Steve Jobs, perché insomma anche dal mio punto di vista è un caso un po' da studiare. Però quello che mi ha colpito molto, e possiamo per così dire... Cuore e denari. Eccoci qua, siamo ritornate in diretta e non possiamo non dedicare un attimo di tempo, un po' della nostra attenzione a lui, questo potenziale nuovo primo ministro italiano. Anche perché l'abbiamo sentito, ma anche l'abbiamo guardato, e vedevamo che il nostro esperto, il dottor Cucchi, lo analizzava con occhio e orecchie cliniche. Ansia, devo dire che l'ha gestita benissimo. Sì, l'ho guardato anche con un po' di ansia io, nel senso, insomma, non solo con occhio clinico. Sicuramente è un istrione, tiene benissimo il palco. Sicuramente si è lanciato in mari procellosi, e quindi questa verve di intraprendenza ce l'ha. Ci auguriamo ovviamente che riesca a costruire anche le competenze più hard che trasformano la scintilla che scocca in un grande progetto, no? In questo senso, visto che poco tempo fa è stato San Valentino, e il titolo della trasmissione Cuori e Denari, mi viene da citare Sant'Agostino, no? Che scrive una lettera all'uomo per amare con passione sempre, no? E diceva che innamorarsi capita, in un certo senso anche di essere imprenditore, ahimè, probabilmente ci capita, no? A qualcuno di noi capita, però amare si fa, nel senso, un percorso, per cui non dobbiamo abbatterci. Anche Matteo Renzi dovrà riuscire a credere con la stessa costanza e determinazione in quello che sta facendo, mettendosi in gioco. 800 24 00 24, mettetevi in gioco anche voi, come? Chiamando il nostro numero verde. Salva Danaio. Lo sappiamo che ogni storia è diversa, noi però vogliamo idealmente un po' raggruppare questo desiderio di diventare imprenditore in tre grandi categorie, per venire un po' incontro anche a chi ci sta ascoltando, con la speranza, come si dice, di intercettarvi. Il primo caso è quello del ragazzo uscito dall'università che, annusando un po' il clima, sa bene che le aziende non assumono, insomma decide di mettersi in proprio, magari ha fatto qualche stage, capisce che il lavoro dipendente non fa per lui e si butta. A proposito, dottoressa Trovò, un'indicazione concreta per il neouniversitario che vuole buttarsi? Allora, neouniversitario che vuole buttarsi deve, non voglio essere ripetitiva, ma chiaramente capire dove si vuole buttare, deve valutare quelle che sono, diciamo, i punti di forza, i punti di debolezza della sua idea, confrontarsi con quelli che sono le opportunità del mercato e i rischi. Se queste cose si matchano, se è bravo anche nel trovare qualche risorsa per partire, però ha dalla sua il fatto che è giovane, quindi potrebbe approfittare. Sì, potrebbe. Per i giovani ci sono molte iniziative, di solito locali, delle camere di commercio che erogano anche degli aiuti in denaro. C'è anche una banca italiana importante che ha aperto anche filiali per soli giovani. Immagino, non lo so per certo, ma immagino che si possano trovare dei prodotti appunto per delle piccole start-up, perché immagino, no, che il giovane neouniversitario pensi almeno nella partenza sia qualcosa di piccolo, ma appunto perché ha dalla sua che è giovane, chissà che non potrà fare qualcosa di molto grande. Certo. Il secondo caso di cui vogliamo parlare è quello di chi per necessità invece deve inventarsi un lavoro. In questo periodo sono in tanti coloro, appunto, a cui è capitato magari un inghippo nella propria carriera professionale. Decidono quindi queste persone di mettersi in gioco riciclandosi in qualche modo, mettendo a frutto la propria esperienza. Qua chiaramente saranno anche persone un po' emotivamente in difficoltà. Una volta superato questo momento, dottoressa Trovò, che cosa fare? Che cosa fare? Qui immagino che si parta un po' dalle esperienze professionali precedenti, perché in effetti qualcosa lo sappiamo già fare. Ho visto casi concreti di dirigenti, manager o anche diciamo di profili un pochino più bassi che si sono riciclati nella consulenza, per esempio. Ecco, se l'idea di fare il professionista magari attivando quelle che sono le proprie competenze è anche molto facile cominciare, perché basta anche aprire una semplice partita IVA e sfruttando appunto quello che sono le nostre conoscenze. In alternativa, se abbiamo un'idea un pochettino più articolato, vogliamo pensare di aprire un'azienda che produca dei servizi più complessi o dei prodotti, anche qui magari dobbiamo farci aiutare da un commercialista, da un notaio, possiamo pensare di fondare una società e magari in questo caso possiamo pensare anche di attivare dei contatti che derivano proprio anche dal nostro mondo lavorativo precedente. E fare rete in qualche modo. E no? Fare rete. E poi c'è il terzo profilo, quello che folgorato sulla via di Damasco dice: sai che cosa ti dico, mollo tutto e mi metto in proprio. Qua bisognerebbe avere forse l'aiuto più del dottor Cucchi rispetto all'aiuto che ci può dare la dottoressa Trovò. Vengono guardati un po' come pazzi. Dottor Cucchi, diciamo che se l'illuminazione è per passione parte benissimo, no? Per cui riesce ad appassionarsi in quello che fa, e questo è il segreto degli imprenditori che vanno al lavoro appassionati. Sarebbe bello riuscire a farlo sempre tutti. Credo che sia importante per una figura di questo genere confutarsi, cioè una volta che scendo in campo con qualcosa che conosco, che mi appassiona, devo fare l'avvocato del diavolo e capire dove sono da costruire. E allora 800 24 00 24, il numero verde per continuare ancora a così segnalarci le vostre esperienze. Io ne raccoglierei un paio prima di andare a sentire poi un imprenditore che ha un grande successo, e fra un po' alzeremo il velo su questa figura misteriosa. Intanto sentiamo, che ci darà qualche sì molto concreto, oltre ad essere una gran bella persona è anche molto concreta. Remo da Milano, buongiorno. Anche un bell'uomo. Allora va bene, Remo da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi, salve a tutti. Buongiorno, grazie. Ci dica. Allora, dunque, la mia esperienza, dico nostra perché quella sarà fatta insieme agli altri due fratelli che ho. Noi un anno e mezzo fa ci siamo un po' inventati, visto le crisi in tanti altri settori in cui comunque qualcosa facevamo, siamo inventati una nuova attività. Sì. Da un'esperienza un po' particolare avuta per sbaglio, è venuta fuori un'idea imprenditoriale che è stata quella di mettere su un'attività per la rigenerazione e il lavaggio delle scarpe. In poche parole, noi abbiamo messo su dapprima un negozio nella nostra piccola cittadina a Cassino, un negozio che si rivolgeva al pubblico, soprattutto femminile in questo caso, che volesse in qualche modo evitare di buttare via scarpe o recuperare scarpe visti i tempi di crisi, semplicemente lavandole, ma è un'idea geniale. Infatti non mica bisogna inventarsi la bomba atomica per avere un'idea imprenditoriale di successo, no? O comunque che ne so, un'altra penicillina, adesso io non so cosa mi può venire in mente, però Remo insomma è partito da una cosa di grande necessità per noi donne che ne combiniamo con le nostre scarpe di tutti i colori. E come sta andando, com'è Remo? Andata? Ecco, così, adesso dopo un anno e mezzo devo dire che i negozi sono diventati 18. Ma a Milano non viene Remo? Che noi Ci siamo a Milano. Allora vi cercheremo perché arriveremo con una sportina con le scarpe mie di Debora. Siamo sempre in giro dalla mattina alla sera. Remo, congratulazioni, bravo e soprattutto in bocca al lupo per tutto. Sì, sì. Remo, ci dica il suo segreto, perché adesso vogliamo raccogliere. Ma allora, non è questione di segreto, ma cioè anche una questione anche di passione, forse anche di necessità, nel senso che quando ti rendi conto che hai un lavoro in mano che forse è unico in questo momento, allora cerchi di approfittarne, di darci dentro il più possibile. Certo, i 18 negozi non sono tutti i nostri, perché? Perché dopo un po' che abbiamo provato su quello nostro, abbiamo visto amici che volevano provarci, abbiamo dato la possibilità ad altri di aprire, per cui sono tanti altri imprenditori come noi che hanno creduto nel nostro, diciamo, nella nostra idea e hanno voluto aprire un negozio. E non dico che le difficoltà in queste poi sono enormi, ma non tanto, perché noi trovare persone che vogliono aprire il negozio, vogliono provarci, ce n'è tante. Quelli che poi effettivamente sono in grado di farlo. Perché tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare. naturalmente prima di tutto la persona che si adatta anche a fare il lavoro, perché devi lavorare, cioè, c'è manualità, noi laviamo a mano, non è che mettiamo nelle lavatrici qualche cosa. Ecco, quindi non ti venga in mente adesso di andare a casa a mettere tutte le tue scarpe nella lavatrice, non funziona. No, l'ho anche fatto e ho anche combinato qualche danno in passato, ma vabbè, poi sbagliando si impara. Remo, grazie. Anche Davide ha aperto delle attività che adesso si stanno un po' proprio moltiplicando come i pani e i pesci. Davide da Verona, buongiorno. Salve, buongiorno. Innanzitutto, vabbè, alcune di queste le ho già vendute negli anni. Io ho 40 anni, ho lavorato praticamente un po' in tutta Europa, perché in Inghilterra, in Germania, anche in Croazia, adesso in Italia. In questo momento in realtà come imprenditoria sto dando una mano a mia moglie a partire eventualmente con un'idea che lei ha lei. Io più che altro chiamavo per dare un consiglio. In questo momento, soprattutto se uno inizia una nuova idea imprenditoriale, deve essere assolutamente innamorato di quello che andrà a fare. Non si fa per soldi, perché se si fa per soldi di solito si perde. E soprattutto, prima di iniziare questo percorso, raggruppare tutte le idee positive che si hanno e andare a confrontarsi con delle persone eventualmente pessimiste. Pessimisti ne abbiamo tanti. Sì. Non è difficile trovarle. Sì, ci serve come banco di prova. Se superiamo queste parti qui, di solito poi il successo, naturalmente ci sono tante cose che vanno aggiunte a questo, però se riesco a essere determinato... Anche dopo esserci confrontati con una persona che ha una visione molto negativa, Davide, significa che si ha in mano un'idea vincente, no? Se non ci lasciamo scoraggiare. Devi sentire l'avvocato, quello che fa la parte del diavolo, che non è la parte che fa il dottor Cucchi, ma vorrei chiedergli se questa idea le sembra buona. Beh, direi che è lo spot perfetto per coloro che vogliono far crescere la loro imprenditorialità. E quindi... Ottimo. E allora, io vi avevo annunciato appunto che avremmo avuto un ospite questa mattina che con grande concretezza ci racconta come si avvia un'azienda di successo e poi come naturalmente questo successo lo si mantiene. La società della quale parliamo oggi, probabilmente i più fashion, i più modaioli la conosceranno, perché è una società quotata in borsa dallo scorso giugno, ha avuto peraltro questo debutto in borsa un grandissimo successo, segno che c'era bisogno tra gli investitori anche di puntare su aziende con una grande validità. L'imprenditore in questione, lo saluto, in collegamento in diretta da Barcellona, Andrea Tessitore, amministratore delegato di Italia Independent. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Deborah e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua, allora grazie per la sua disponibilità. Andrea, questo marchio è noto al grande pubblico come la società degli occhiali da sole di Lapo Elkan. La società oggi produce e distribuisce in tutto il mondo perché c'è grande fame e sete di Made in Italy in ogni parte del pianeta. Andrea, io ho letto una sua intervista in cui qualche mese fa lei raccontava questa azienda qualche anno fa, quando è partita 6-7 anni fa, non ha una lunghissima storia e tradizione, era una pagina bianca dove non c'era nulla. Quali capitoli avete scritto di questa storia fino a questo momento, visto che sono ancora pochi i capitoli? Beh, siamo ancora all'inizio di questa avventura, un'avventura che nasce nel 2007, quindi nasce in un momento storico molto particolare, perché se si vuole è nata un po' nell'apice dell'economia, ma sappiamo tutti quello che è successo poi nel 2008 con il crollo di Lehman Brothers, con tutti i problemi che ci sono stati anche relativamente a recuperare, all'ottenere credito dalle banche. Quindi un'azienda che si è confrontata sin dai suoi primi passi con la recessione, quindi un'azienda che ha dovuto ha iniziato ad operare in un paese che è l'Italia, che è cresciuta in Italia e che oggi dopo 6 anni è riuscita, diciamo, a superare la fase, diciamo, di startup e quindi ha iniziato da pochissimo a confrontarsi con il mercato. Io penso che abbiamo sentito prima Matteo Renzi, abbiamo sentito prima qualche esperienza imprenditoriale di successo di giovani che si lanciano, penso che tutte queste storie abbiano in comune poi 3 punti, l'ambizione, una sana audacia e incoscienza se si vuole, numero 2 preparazione, la preparazione che può arrivare anche dalla passione appunto che deve guidare ogni imprenditore, e numero 3 un'enorme voglia di confrontarsi con il mercato. Perché questo è quello che l'imprenditore deve porsi come obiettivo, e perché chi ci giudica e chi ci fa andare avanti alla fine è il mercato. Mercato che ultimamente, negli ultimi anni, è diventato molto selettivo, molto duro. Quindi io penso che questi tre elementi siano condizione necessaria ma non sufficiente per lanciare un'impresa di successo. Certo, solo un'altra domanda, Andrea, perché purtroppo stiamo chiudendo. Per chi avesse la vocazione come la sua e anche di operare in un comparto tradizionale, perché quello dell'occhialeria lo è e apparentemente anche un mercato saturo, no? Cosa può fare per metterci quel pizzico di creatività e fare qualcosa di innovativo anche in un settore estremamente tradizionale? Penso che fondamentale sia pensare non solo al prodotto, quindi l'entusiasmo iniziale non deve essere legato solo al prodotto che si vuole lanciare, ma un'attenta analisi di dove lo si va a lanciare, e quindi in qualche maniera, dal momento che quando si inizia bisogna confrontarsi anche con i giganti del mercato, come abbiamo dovuto fare noi, cercare in maniera pratica di spacchettare, secondo me come consiglio, quelle che sono le regole classiche del gioco. Per dare un esempio concreto, noi che abbiamo come obiettivo quello di lanciare un brand con dei capitali che all'inizio, come tutti ben sappiamo, per ogni imprenditore sono limitati, abbiamo nella comunicazione, nel modello di business e sul prodotto, abbiamo cercato di appunto spacchettare la regola del gioco giocando la nostra partita in maniera differente. Insomma, ci avete visto chiaro e lungo, ecco, infatti, con quegli occhiali tutti colorati come quelli che porta Nicoletta. Andrea Tessitore, grazie molte, alla prossima, buona giornata. E ci scriviamo le tre parole chiave: ambizione, preparazione e confronto. Dottor Cucchi, promosso anche Andrea Tessitore? Beh, direi di sì, direi che mette insieme due cose: una visione audace che è dell'imprenditore e la quintessenza del saper far avvenire le cose. Ricordiamo il titolo del libro della dottoressa Trovò, che è domani in edicola. Con il Sole 24 Ore, lo sarà per qualche settimana. Mettersi in proprio, business, idea, business plan, finanziamento ed investimenti, aspetti giuridici, fiscali, contabilità, contratti di lavoro. Non ci scoraggiamo di fronte a tutto questo. Fa venire l'ansia, nessuna paura. Vincere l'ansia, esatto. Come? Con l'intelligenza emotiva, è quello che consiglia il dottor Cucchi nel suo libro. Grazie per essere intervenuti. Grazie a voi. Proponiamo la vendita in abbinamento, mi sa. Che fosse il caso. Gianmarco Ferronate in regia alla parte tecnica. Laura Vanossi, Camilla Tomadini, Marco Lombardo torna domani. Ricordatevi che sulla nostra pagina di Cuore Denaro ci sono gli incipit di Andrea Vitali, uno per il cuore e uno per i denari. Completate, state scrivendo. Completate i racconti, mandatecene tanti perché ci sono delle fantastiche smart box pronte per voi. Grazie, a domani.